perversione concettuale, astrazione dei componenti di ragionamenti sensati, tanto per vedere come reagiscono i sottoposti a questi esperimenti forse mai provati. Ti testo nel chiaso, vestiti in testa lisci sul testosterone, non convolerai a giuste notte. Aga, posso diventare più ermetico, il salvatore quasimodo, introverso perché timido, stupido. Sta di fatto che se sei cupido, il lasso è biose, non saprai mai che cazzo dicano. Gli altri dicono, dicono, dietro però non c'erano altro che metafore di un voler essere, e poi sarai quello che non si riesce ad esprimere. Forse la perversione sta nel vedere significati ovunque, buono, cattivo, bello, brutto, giusto, sbagliato, vero, falso, nascondere così piscono l'essenza, l'essenza, assenza. Mi sembra che non stiate capendo il burro con il tacca e fondo, voglia mondo, quando penso che testi degli altri esprimono al massimo il 10% di quello che pensano. Perverso, il concetto, prima di tutto. Perversione, paradossale, limitazione, imitazione di Cicerone, emulazione di una concinità della strofa e della lirica, l'autoincensamento degli oratori risveglia il Seneca, il quale predica la brevitas, la sentenziosità, la concezione della saggezza stoica. La mia critica sarà assoluta, oppure solo una presa di posizione. La perversione sta nella forza, e sottolineo forza, permanente tensione. Sei destinato a non capire, oppure a guardarmi dire stupido, oppure non vedermi e non accorgerti che anche io vegeto. Questo skit non ha senso.